Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi torneremo anche sulla vicenda di Milano. Le polemiche sono salite a tre, le vittime dell'aggressione fatta da Madaka Bobo a Milano a colpi di piccone, con le annesse anche considerazioni. Ora il sindaco di Milano Pisapia dice: siamo pronti anche a rischierare l'esercito, ma che non siano ronde ma presidi fissi. E la polemica che riguarda anche la sicurezza nelle grandi città, e anche la polemica legata al fatto che questo cittadino è un uomo che era stato colpito da provvedimento di espulsione. Ne parliamo alle 8:15 con anche le vostre telefonate. 800 24 00 24 è il numero, dalle 8 attivo. E che dire, andiamo a leggere i giornali? Sì, è mercoledì 15 maggio. Intanto i titoli: il Sole 24 Ore apre sui debiti della pubblica amministrazione, 3,5 miliardi ai comuni, questa è la notizia data in prima pagina. Per il Corriere della Sera: non si comprano più case, la crisi del mercato immobiliare. Repubblica: sentenze, il piano Berlusconi. E anche sulla vicenda giudiziaria di Berlusconi apre il Fatto Quotidiano: bunga bunga, 30 milioni il prezzo del silenzio. Per La Stampa: assalto alla TAV, governo in campo. Per il Messaggero: pensioni flessibili, ecco il piano. Come vedete, ogni giornale apre su una notizia diversa. Il Giornale: lettere a una PM perdente. La PM perdente per il giornale Ilda Boccassini. L'Unità: insulti PDL, deliri di Grillo. Libero: la mutua gay della casta. Gli onorevoli estendono l'assistenza di cui godono anche ai conviventi dello stesso sesso. In pratica legalizzano le coppie omo, ma solo in Parlamento. Avvenire invece: la domenica si può liberare. È una campagna per la chiusura di rivedere l'idea della liberalizzazione dell'apertura dei negozi anche la domenica. Mentre il Manifesto apre sulla notizia con la quale voglio aprire anch'io in rassegna stampa: la casa brucia. Questo è il titolo di prima pagina. Beh, la casa brucia non solo per la crisi del mercato immobiliare. Quando scrivono questo titolo al Manifesto si riferiscono certamente anche alla vicenda della provincia di Ragusa, Vittoria. Davvero una vicenda avvenuta a Vittoria, questo comune che mi ha molto colpito, e giustamente oggi su tutti i giornali ne parlano con almeno una pagina. La vicenda di un muratore che era rimasto disoccupato, Giovanni Guarascio, 64 anni, che per un debito di 10.000 euro con la banca si è visto pignorare e mettere alla vendita, all'asta giudiziaria, la casa. Ieri era il giorno dello sfratto esecutivo, perché c'era un nuovo acquirente che voleva prendere possesso di quella casa, l'aveva acquistata per 23.000 euro. Pensate, questa casa il muratore l'aveva costruita con le sue mani, era disperato perché con questi debiti aveva perso la casa, non riusciva più a pagare la retta per l'università delle due figlie. Alla fine, dopo l'ennesima lite con l'ufficiale giudiziario, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. La sua casa va all'asta, si dà fuoco, questo è il titolo per esempio alla Stampa, pagina 6. Ma racconta anche il Sole 24 Ore con Nino Amadore: la sua casa va all'asta, si dà fuoco, il titolo è identico. L'immobile era stato venduto un anno fa per un debito di 10.000 euro con la banca. E racconta tra l'altro il Sole 24 Ore, è l'unico a dare questo particolare, che il nuovo proprietario, un 35enne di una frazione di Vittoria, aveva più volte dimostrato comprensione, racconta il suo avvocato Daniele Drago, dimostrando di recedere, ma chiedendo di recuperare solo i soldi che aveva pagato per acquistare l'immobile che riteneva disabitato. Mentre l'ufficiale giudiziario portava a termine ieri la procedura, accompagnato come di norma da due agenti di polizia, Guarascio ha preso un bidoncino pieno di benzina, si è cosparso e si è dato fuoco. Ovviamente da lì il finimondo. Ora è in condizioni gravi, anche se stabile, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo. Il sindaco di Vittoria dice: in questo momento di crisi sarebbe il caso che ci fosse una sospensione dei pignoramenti delle case. La CISL, racconta La Stampa, lancia un allarme: entro la fine dell'anno 250.000 famiglie non riusciranno più a pagare e sono quindi a rischio pignoramento, a rischio che la casa le venga tolta. Si dà fuoco per salvare la casa all'asta, questo è anche il titolo del Corriere della Sera con intera pagina, pagina 6. È grave, sono ustionati anche due agenti, la moglie, una figlia, il tutto per un debito di 10.000 euro. Era stata giudicata un impiegato che, racconta il Corriere, se l'era comprata per 26.000 euro. Ecco, è una storia davvero che toglie il fiato, soprattutto se paragonata, prima lo abbiamo fatto, l'ha detto anche la nostra amica Paola Saluzzi, e sicuramente fa rabbia. Certo, sono notizie che non c'entrano niente, non da accumulare una a fianco all'altra, sono totalmente slegate. Ma quando uno poi salta sul secolo XIX, e vi premetto subito, mani strettissime sul volante oggi se state guidando, o tazzine del caffè bollente subito da appoggiare. Lo avete fatto? Ecco, bravi. Quando uno salta sul secolo XIX, dopo che legge questa notizia che proviene dalla Sicilia, e legge in prima pagina: il consigliere Rocca mette anche i fagiani in conto alla regione, Marco Grasso e Matteo Indice raccontano la storia della vicenda giudiziaria che va avanti alla regione Liguria per i presunti, per carità, usiamo il condizionale, rimborsi dei consiglieri regionali a spese nostre, per compere loro, e legge che in attesa di una versione un poco più articolata che spieghi come mai quel tipo di spese fosse pagato con soldi pubblici, una cosa è chiara: il consigliere regionale Franco Rocca non mancava certo il buon gusto in fatto di cibo e arte. Dopo essersi fatti rimborsare pasticcini a Ferragosto, cene agli stabilimenti balneari di Zoagli, il formaggio Sanste della Val d'Aveto, novità, si è fatto rimborsare un'abbondante fornitura di selvaggina, 200 euro di fagiani comprati regolarmente e fatturati da un cacciatore di Alessandria. Ma poi c'è anche un quadro da 350 euro comprato, e Rocca avrebbe regalato questo quadro a Natale 2011 al governatore Burlando. Lui dice: non ricordo di questo regalo, ma 200 euro di fagiani. Poi racconta al secolo XIX anche due biglietti della lotteria comprati sull'autostrada 7 tra i caselli di Bolzanete e Busalla e l'altro nei pressi di Serravalle Scrivia. E poi i fagiani del consigliere in conto alla regione. I fagiani, 200 euro di, immagino, gustosi fagiani, e poi il formaggio, e poi il quadro ma regalato al governatore. Ma se devi fare un regalo al governatore, ma compratelo e pagalo, e poi fai i regali che vuoi. O no, non è questo il concetto del regalo? Vabbè, insomma, accomunando queste due notizie che non c'entrano nulla, slegate una dall'altra, ma le trovate entrambe sui giornali oggi, verrebbe da spaccare quattro computer. La politica ancora si interroga per quel che riguarda la lettura dei giornali sulla vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, che ieri è stato ancora interrogato, questa volta dalla Procura di Roma, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 18, escort Berlusconi dai PM di Roma, questo è il titolo. È stato interrogato per la dazione di 500.000 euro ai faccendieri Walter Lavitola e Giampaolo Tarantini, un'estorsione ai suoi danni, secondo la magistratura capitolina. Comunque racconta tutto Ivan Cimarusti a pagina 18, per il giornale ancora nel mirino Berlusconi, sentito 3 ore sui soldi a Tarantini. Ma la vicenda più interessante, l'articolo più interessante su questa situazione giudiziaria lo fa Repubblica in prima pagina. Il titolo è Il piano Berlusconi, sentenze, il piano Berlusconi. Questa è l'apertura di prima pagina di Repubblica. Lo scontro sulla giustizia, e Claudio Tito rivela in un lungo retroscena, pagina 1, e poi continua pagina 3. il presunto piano dell'ex premier, che è questo: se la Cassazione conferma la condanna per il processo Mediaset, certo non sarà questo Parlamento a tutelarmi. Per lui ormai si tratta di una guerra, un conflitto senza esclusione di colpi contro PM e giudici politicizzati, ma per Silvio Berlusconi stavolta la prima battaglia potrebbe essere quella decisiva, quella da cui non si torna più indietro. La Suprema Corte infatti deciderà entro i prossimi mesi sul caso Mediaset, sicuramente prima di giugno 2014, dovrà pronunciarsi sulla conferma o meno sulla pena a 4 anni di reclusione, ma soprattutto sull'interdizione ai pubblici uffici. E allora a questo proposito, scrive Repubblica, Berlusconi appronta in caso la carta della crisi di governo, da provocare non ora ma quando e soprattutto se i messaggeri dell'ex premier avranno maturato la convinzione che la Cassazione non offre chance positive. Il piano B di Berlusconi è dunque pronto e poggia su 3 pilastri: il mantenimento dell'attuale legge elettorale, vale a dire il Porcellum, il ricorso alle elezioni anticipate e il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Questo è il piano B del Cavaliere contro le sentenze, secondo Repubblica, cioè se la Cassazione mi condanna faccio cadere il governo e vado al voto. C'è poi una lunga spiegazione di quello che è il procedimento anche su un eventuale decadimento poi dal Senato. È tutta una procedura parlamentare in caso di condanna. Insomma, Repubblica si porta un po' avanti sui possibili scenari di quello che può succedere. Beh, il Fatto Quotidiano invece la mette così, andando a pagina 2-3 ad elencare l'elenco, l'insieme delle persone che sono state beneficiate da Silvio Berlusconi con dazioni di denaro. Testimoni a stipendio: così Berlusconi ha speso quasi 30 milioni, infatti questa cifra è il titolo di prima pagina, Bunga Bunga, 30 milioni è il prezzo del silenzio. C'è tutto Nicole Minetti, Karim Almarug, per la procura ha portato a casa 4 milioni e mezzo di euro, e poi Ioana Visan, 2.000 euro al mese più 10.000 per l'onomastico, Miriam Loddo, 2.500 euro al mese, Imma De Vivo, 72.000 euro al padre, 2.500 euro al mese e una casa in via Olgettina. E insomma è così: Maristel Polanco, 10.000 euro in contanti e una casa a Milano 2, Lisa Barizonte, uno stipendio da 2.500 euro al mese. Insomma, l'elenco di tutte le ragazze, ma anche non solo ragazze, che sono entrate: c'è anche Apicella, c'è anche il pianista di Arcore Danilo Mariani, ha acquistato una sua casa a Sarteano in provincia di Siena, fa sapere il Fatto Quotidiano. Insomma, tutto un elenco di persone che secondo il Fatto sarebbero state beneficiate con l'intento chiaro di silenziarle. Questa è l'accusa del Fatto Quotidiano. Vabbè, la politica poi è poca altra cosa, è lo scontro verbale Brunetta-Boldrini, con Brunetta che dice: visto che lei mi chiama deputato, io la chiamo, e sono invece presidente del gruppo del PDL alla Camera, la chiamerò anche io deputata Boldrini. C'è Grillo che, secondo l'Unità, si è abbandonato all'ennesimo delirio. Questo è il titolo di prima pagina dell'Unità, deliri di Grillo. Perché? Perché ha tornato a evocare le barricate. Ieri ha detto: siamo l'unica forza in questo vuoto di democrazia, se non ci affermiamo noi arrivano le barricate, noi del 5 Stelle la rabbia la stiamo tenendo, senza di noi esploderà, dovrebbero ringraziarci, dirci grazie che ci siete, visto che possiamo avere un dialogo. E l'Unità lo mette a pagina 3, Grillo evoca le barricate, tregua armata nel Movimento 5 Stelle. C'è il dibattito nel PD, un po' surreale il dibattito nel PD. Tra l'altro, a proposito di PD, domani esce un nuovo libro di Veltroni, che però non ha come titolo La mia Africa 2.0, ma E se domani, credo si intitoli così. Comunque non è un libro sull'Africa. Ecco il dibattito surreale nel PD. Chiamparino è in campo, così titola per esempio il Corriere della Sera. Tutti guardano a Chiamparino come possibile successore del traghettatore Epifani, e invece Chiamparino fa un'intervista all'Unità, intervistato da Maria Zegarelli, dice: sa cosa mi manca di meno da quando non sono più sindaco a Torino? L'assalto della stampa. tu dai una risposta a una domanda ed ecco i titoli. Ecco, racconta così questa vicenda della candidatura. Guardi che non ho mai detto che voglio candidarmi. Del PD, tra l'altro, non ho neanche la tessera. E tutti quelli che fanno il mio nome non li ho mai sentiti. Spiego com'è andata questa vicenda della mia presunta candidatura. Presentavo un libro quando un collega, suo collega dell'Unità, cioè un collega di Maria Zegarelli che l'ho intervista, mi ha chiesto se sarei disposto a candidarmi. Io ho risposto che in questo momento non mi candido a nulla, da un anno faccio un lavoro interessante che mi coinvolge, ma certo, la passione per la politica, quella è ancora lì, intatta. Ecco, da questa domanda in cui non ha proprio detto no, ma dicendo mi rimane la passione per la politica, dice Chiamparino, nasce questa candidatura. Ma poi aggiunge: nessuno mi ha proposto nulla, faccio altro, su questo governo bisogna investire. Ma certo, se arrivasse, allora a questo punto si gioca l'anticipo, se arrivasse a questo punto, dopo la proposta su vari quotidiani, la proposta vera a lei, non lo so, non ci ho pensato, dovrei prima credere a un progetto politico. Chi non crede più al PD pare che sia invece Romano Prodi, che ieri è andato a Palazzo Chigi per incontrare Letta per preparare una missione sulla Cina, ma racconta in un retroscena Fabio Martini sulla Stampa, sarebbe pronto proprio a lasciare il partito. Prodi medita un addio al PD senza strappi. Questo è il titolo sulla Stampa, pagina 11. È tornato a Palazzo Chigi, c'è entrato a piedi. 5 anni dopo il suo addio alla politica, Romano Prodi è tornato nel palazzo di governo per fare 4 chiacchiere col suo amico Enrico Letta. È entrato da un portone, dallo stesso portone dal quale era uscito con un magone indimenticabile l'8 maggio del 2008 e medita ora un distacco dal Partito Democratico. Certo, fa male, brucia certamente ancora la bocciatura alla presidenza della Repubblica per via di 101 franchi tiratori. Alla Camera, su richiesta di Ivan Scalfarotto di poter estendere la copertura sanitaria, come tutti i deputati e senatori possono fare per un compagno, un convivente, Ivan Scalfarotto aveva chiesto di estenderla per il compagno con cui ha una relazione, e questo aveva suscitato un dibattito. Alla Camera hanno detto no, non può farlo perché non c'è la copertura sanitaria per le coppie omosessuali. E invece la Camera ieri ha dato ragione a Ivan Scalfarotto. Cosa si produce dunque? Una situazione per cui alla Camera, per i deputati così come per i senatori, se ci sarà anche per il Senato, è diversa rispetto a quello che c'è nel resto del paese. Cure al convivente gay, ma solo per deputati, così titola il Corriere della Sera, pagina 26, il diritto all'assistenza sanitaria esteso anche alle coppie dello stesso sesso, racconta Alessandra Arachi. Ma addirittura per il Libero è la notizia di prima pagina: la mutua gay della casta, gli onorevoli estendono l'assistenza di cui godono anche ai conviventi dello stesso sesso, in pratica legalizzano le coppie omo ma solo in Parlamento. E allora c'è Maurizio Belpietro che fa l'editoriale, il cui titolo è: i diritti dei parlamentari devono valere per tutti, anche per il Messaggero, deputati, assistenza sanitaria ai conviventi dello stesso sesso. Beh, comunque la pensiate, certamente una notizia che fa e farà discutere sia sull'aspetto di merito e sia sull'aspetto che, insomma, non si capisce perché se deve valere un qualcosa per il Parlamento non debba valere anche per tutto il resto del paese, come se il Parlamento fosse un qualcosa di diverso. Intanto dalla politica all'economia vi segnalo che ieri il ministro Saccomanni ha dato ufficialmente per la prima volta una sorta di apertura in maniera pubblica, come racconta anche il Corriere a pagina 3, del fatto che l'esenzione dall'IMU, del pagamento dell'IMU a giugno, potrebbe valere anche per capannoni e per tutte le imprese. Saccomanni: la riforma dell'IMU non sarà solo sulla prima casa, questo è il titolo. Il rinvio in vista per capannoni industriali ai fabbricati agricoli, arriva la prima conferma ufficiale che il ministro dell'economia Saccomanni sta studiando la possibilità di rinviare il pagamento dell'imposta di immobili IMU anche per capannoni industriali e terreni agricoli. Ieri, al termine dell'Ecofin a Bruxelles, ha detto Saccomanni, annuendo: è in esame tutta una serie di cose rispetto alla iniziale idea di coprire soltanto la prima casa. E quindi un'apertura anche alle imprese, appunto. Sempre per quel che riguarda l'economia, che ne pensate della svolta di Equitalia, come viene definita dal Giornale, per esempio, in una pagina, dal Messaggero, la svolta di Equitalia? una lettera mandata ai dirigenti della stessa società. In un momento di crisi non possiamo non essere sensibili, cioè Equitalia scrive ai propri dirigenti invitando la sensibilità e la valutazione caso per caso della situazione degli italiani morosi. La svolta di Equitalia, valutare caso per caso, arriva la rata flessibile. Questo per il Messaggero. Oppure per il Giornale, Equitalia dice addio alla linea dura. E questo certamente è un'altra notizia interessante. La cronaca, faccio solo due accenni, uno sulla TAV, perché poi se ne occuperà Simone Spezia alle ore 9. E c'è stato un attacco notturno dei Notav con Molotov, Bengala e Cappucci. C'è un'intervista anche a Angelino Alfano, ministro dell'Interno, a pagina 2 della Stampa, che dice: attenzione, lo Stato non arretrerà. E anche il procuratore capo della Repubblica a Torino, Caselli, intervistato dalla Repubblica, dice: sono prove tecniche di terrorismo. Le altre notizie riguardano invece di cronaca, le approfondiremo noi alle 8.15, la vicenda di Milano. È morto anche Ermanno, volontario, pensionato, è la terza vittima del picconatore, come viene definito in maniera molto brutale, Mada Kabobo, 31 anni, che in questo gesto di follia sconsiderato ha colpito a casaccio 5 persone a Milano, 3 delle quali a questo punto sono morte, 2 invece sono state ferite in modo non grave, fortunatamente. E certo, ora ci si chiede come reagire, ci si chiede perché fosse libero una persona con un elenco sterminato di precedenti, e ci si chiede anche se non ci sia bisogno di maggiore sicurezza con Pisapia, il sindaco di Milano, che racconta il Corriere, dice: sì al ritorno dell'esercito in città, ma niente ronde. Ne parleremo alle 8.15. Voglio chiudere con una notizia che riguarderà sicuramente, interesserà moltissime donne soprattutto, la notizia che ha fatto scalpore, la troverete in prima pagina in tutti i giornali. Angelina Jolie, straordinaria donna, straordinaria attrice, che ha raccontato in un racconto molto intenso pubblicato al New York Times, che oggi Repubblica riporta in italiano, la decisione di sottoporsi a una doppia mastectomia radicale, cioè si è fatta togliere entrambi i seni, perché è portatrice di un gene che comporta un rischio altissimo di avere un tumore al seno nel corso della vita. Racconto dell'attrice americana: questa è una scelta per la vita, quindi è una prevenzione sulla possibilità, che era quantificata dai medici dell'85% in quanto portatrice di questo gene maligno, di poter sviluppare la malattia in vita. Ho tolto i seni per prevenire il cancro, e ovviamente su questo si apre un dibattito. C'è Umberto Veronesi che sia viene intervistato dalla Stampa, sia fa un pezzo su Repubblica dicendo che in realtà è abbastanza scettico. Veronesi dice peraltro: le rimane comunque un 5% di rischio, quindi il rischio non sa nulla dall'85% a zero, si potrebbe invece puntare più sulla diagnosi precoce. Beh, certo, il dibattito sia etico sia medico è molto intenso. Anche Avvenire dedica l'intera pagina 3: prevenire il cancro mutilandosi è polemica. Questo su Avvenire, Daniela Pozzoli, un'intera pagina. Certo, il dibattito è molto molto sviluppato sui giornali di oggi.